lo senti a Eugenio Giuseppe? Allora, hai visto che lo senti a tutti. Sentite, a me e Antonello, magari sembravano 4-5 persone, capito? Ci abbiamo la voce grossa, ma eravamo in due. Però Eugenio è impossibile che lo sentito, perché lui è a Porto Toro ed è sotto. Tu sei dall'altra parte e c'è Monte Alvaro davanti, quindi è possibile che lo senti. Infatti poi con quell'antenna non è che, ma quella zona è molto difficoltosa per Alghero. Avanti Eugì. Lui non è colpa tua, Eugì, è colpa sua che c'è l'antenna capottata. Ehi, è una gran freccia, se no già come zona già non è male. Va bene. E quindi devi partire, ti fai tutta la tappa a Palermo, cosa fai direttamente a Palermo, poi da lì parti, insomma, dici, fai Cagliari Palermo. Io avevo fatto Punta Raisi, però avanti l'aereo, perché poi a Palermo la sono tutto mio cognato a prenderci. Però tu col campo devi fare Cagliari Palermo, che mi pare la nave sia una volta alla settimana sempre, se non hanno cambiato così. Non ricordo bene, l'ho registrato perché sì, ogni settimana c'è, ogni venerdì, sì, infatti io l'ho fatto proprio una settimana, perché c'è una settimana parte praticamente da Cagliari, fa Cagliari-Palermo, poi la settimana dopo fa Palermo-Cagliari. Quindi è sempre quella, figura di due vent'anni sono passati, non hanno mai messo una linea diretta. Vabbè, evidentemente il traffico non è molto. Avanti Beck. E chi è? Ciao Mondi. Buonasera. Ben ascoltato, non te lo posso dire perché arrivi molto molto basso. Ciao Mondi, issue. Basso, basso arrivi, basso, basso. Giuseppe, l'hai sentito Mondino Larghero, sì? Ciao Mondi, ma basso, mamma mia, ti ascoltavo sempre un po' meglio tempo fa, adesso stai arrivando basso, basso, basso. Oggi non l'hai sentito tu Mondi, no? Mondi va a Santiago 4 qua, da Alghero. Non lo senti a Eugenio Mondi, no? Non intende, no? Capitale di un garraggio, vabbè, mi sa che mi stacco un po', se no sto tutta la sera seduto qua, ma guarda la testa che ora sono le 18:10, dai, così da mangiare il cane. Oggi ci sentiamo dopo, dai, tutto acceso qua, non spengo niente, ok? Vedi un po', stai in agguato, io mi allontano un po', andare a dormire la testa, mettermi un po' a posto, così da mangiare il cane, poi mi siedo qua fino alle 7:30, 8. Sono qua, dai. Per il momento vi saluto. Ciao Giuseppe, ciao Eugenio e quelli che stanno ascoltando. Sono qua comunque, tutto acceso, tutto orecchie. Cava, cava, già tutti e due, dai. Se entra qualcuno già. Già sono in ascolto. A dopo, ciao. Hola. Attenzione, 10, cambio. Ecco cosa c'è a voci. Sono Vucci, buonasera a Toro. Questo è un apparecchio pimpante, c'è così. Ah, così è, ma in macchina sì. No, a casa. Col Cobra. Cobra. Che cantava Cobra, cosa non si chiama? Cobra non è un serpente, quella lì. Ehi, chi è? Rettore. Ah, il altro rettore. E quindi, ripresentati, sì. Dai, stavo dormendo fino adesso, più di così. Adesso mi sto riposando, ho fatto la medicazione io e... No, l'ho mollato col dottore, non te l'ho detto. No, mollato. E non ci sono più andato perché non mi dava più soddisfazione, non vedevo una fine in questa cosa. Alla fine lo sto curando io con la soluzione fisiologica per disinfettare e poi ci sto mettendo la connettivina, quella che si mette per le piaghe, e mi sta guarendo. Bello, avete bisogno di dottore proprio. Mi ha fatto perdere un po' di tempo, file, questo, quell'altro. Vabbè, dai. L'interessante è che guarisca poi. Adesso si sta chiudendo, si sta formando la carne attorno, piano piano si sta stringendo il buco. Quello si chiude se tu stai a riposo, se non forte il piede, tranquillo che si chiude, capito? Si chiude, non ci sono problemi. Però è chiaro che se la ferita è ancora mezzo aperta, tu continui a pressare e no, non dico che vedi, proprio, nel vero senso la parola. Pensare a sforzare, prendendo pesi, perché anche se ero in piano vendita, mettevano la pedana al centro, poi chiudo qui per la roba e portarla dove, se è roba leggera, ok. Se cominciano a essere sacchi di sabbia per i cani, oppure sacchi di mangime per i cani, perché adesso prendiamo i sacchi da 18 kg anche, quindi immaginati tu con questo sacco, se sta andando a portare la roba dove. Poi magari arrivi lì, non ci sta, via, di nuovo indietro. Ma se viene fatti Eddie invece, a grande torre, forse era meglio. Vabbè, non c'era Antonello, ma la cura che è andato dall'LD, c'era Eugenio, e io ero qua in ascolto. Infatti mi ho fatto mangiare il cane, sembra che non stia piovendo, così dopo si può uscire un po'. Io stamattina ho beccato tutti i momenti dove non c'era pioggia, meno male. E stamattina la prima uscita l'ho fatta alle 10, mi sa. Stava piovendo forte, non si poteva uscire. Cosa riuscivi a fare? A bagnarti e basta. La prima uscita l'ho fatta alle 10, ho fatto anche da bravo, non si è lamentato né niente. Poi come è uscito? Ui! Ha cagato tre volte. Resistono un bel quel cane, resistono un bel anche il mio, se lo abitui ad uscire vabbè, dipende poi, però non c'è bisogno di portarlo alle 8, alle 7, non è un orario per via alle 9, così, è il tempo di riposarti, anche tu di non alzarti presto, io ormai Filippo è abituato a quello 9, 9 e un quarto, 9 e mezzo la mattina, poi tutto quando arrivo io verso le 2 e mezza, e poi lo porto alle 7 e mezza, 8. Basta, c'ha quegli orari e va bene, beh. Che almeno sei tranquillo, se la domenica ti vuoi alzare un pochino più tardi, ti alzi un pochino più tardi. A parte che io sono un orologio oramai, io l'orologio ce l'ho alle 6 di mattina e massimo duro fino alle 7, insomma mi alzo pure. Un orologio svizzero, non ho bisogno manco di sveglia per svegliarmi, a meno che sia tutto stanco stanco. Vabbè, ma poi i giorni che devo andare a lavorare per forza lo devo portare presto, perché poi alle 7 e mezza devo partire da casa, quindi mi alzo alle 6, lo preparo, lo faccio, lo pulisco, le cose, lo spazzolo e poi lo porto giù, faccio dalle 7 alle 7 e mezza, poi alle 7 e mezza prendo e passo. Già va bene, e vabbè, questione di abitudine, no? Io sveglia, non ho mai avuto sveglia io proprio domenica che ero a riposo, perché ero stanco morto, mi sono stato che erano le 8 e mezza, proprio forse una delle domeniche che ero proprio, avevo voglia di stare a letto, mentre c'era freddo, c'era vento, eccetera, invece gli altri giorni, alle 6 anche io sono in terra, inizio a aprire gli occhi alle 5 e mezza, fidati, sono mi sveglio alle 6 mi alzo, 7 meno 20, 6 e mezza, 7 meno 20 sto uscendo, capite? Perché io devo andare a sosso, se no se ero qua a Sassari di nuovo partivo alle 7, 7 e 10, no, ho dato una bella passata d'acqua stamattina, mattinico di sì, belle pimpanti. Già l'ho sentita, ma forse anche lui, perché si è reso conto che stava piovendo, non ha fatto studio, ma non si trova più una giornata bella, gatto. La settimana scorsa c'erano queste giornate, sembravano primaverili, almeno per fare una passeggiata lì a Platamona, vado in macchina, scendo nella sabbia, tanto a me camminare nella sabbia non mi sforzano, perché è morbido, capito, quindi non, il piede non pressa. Una passeggiatina così nella battigia, tanto per farvi fare qualche passo in più. Beh, certo che sì, certo che sì. Io già se ne accorgono, sì. Lo stesso quando sta piovendo, quando c'è tempo brutto, sta sdraiato, coricato, mi ha futtinuta, capito? Mi ha futtinuta. La sua mi sta chiamando mia figlia già. Io ho sentito. Basta, voglio riposo e fare una duccia, mamma mia. Si sta viziando, no? Io ya. Della dieta, buoni. Oggi già sto bene. È la mamma che le piace di dolci. Io non sono amante di dolci già, assolutamente. Io sono in forma. Ero 86 e ne peso 82. Va bene. Mancia non ne ho, sto benissimo. Sono di ossatura grossa, capito? Però sto bene. Inchino bene, lavoro bene, non ce la fa, nonostante fumo, niente. Ho fatto l'analisi d'ora, ciu, ci ho avuto tutto a zero, non riesco a capire perché. Triglicidi nella norma, colesterolo, quello buono, quello cattivo, analisi del sangue e tutto al doc. Va bene. Io sono disperato perché non riesco a abbassare la glicemia, uia. Anche quello è una roba volta poco fa. E mi sono fatto una misurina, ho fatto 25 invece che fa così. Lo vediamo se cala un po', che fallo, che domani devo andare anche a fare le analisi, però non ci vale, perché andarci così poi c'è cosa, non ci vado dopo domani, tanto non è che sia, devi andare circa una settimana prima della visita. Addirittura. No, sono contento anche perché non sto facendo travisi, niente, capito? Non sto mangiando regolare, ti ripeto, il mio bicchiere di vino a pranzo e a cena non avevo bene, pure non sto toccando niente, tranne che acqua, roba gasata, ma sto bevendo già da quest'estate. E niente. Però insomma, roba fritta niente. Infatti l'aria prima portava. Lo va qui tanto nel portale, allora ogni tanto porta le panadas, che sono di carne o di pesce, le polpette le fanno loro e sono al forno, o di carne o di verdure, capito? La pizza è pizza, basta che non sia roba grassa. Io ho mangiato il kebab, però una volta alla settimana già va bene. Cosa lo fanno il kebab? Di che carne lo fanno? Mista, maiale e manco. Ah? E vabbè, se lo fanno loro già si transito, soprattutto quello surgelato che poi loro congelano e lo fanno, no? Sei già pronto da infilare nel posta quello col cazzo di così lì, lo spiego. Già, se tu vai lì lo vedi, capito, lo vedi, è tutto a vista. È infilato in uno spiero, il kebab, loro prendono il coltello e te lo tagliano davanti, capito? Lo fanno giorno per giorno, quello che avanza se lo dividono tra colleghi. Sì, sì, sì. E anche dove fanno il kebab proprio, quello che c'è da Porto Torres, che io lo prendo pure, lo facciamo per voi. E lo mangiamo pure con i ragazzi di adesso, non so se ci sia ancora, se non mi piace c'è uno che fa il kebab. Lo prendevo sempre di quando ci voleva lavoro, andavo e mi facevo prendere un kebab. E io prendevo una Coca-Cola, un kebab e mi rimaniavo a tavolo. È buono. Però ti ripeto, anche lo puoi mangiare sempre. Una volta alla settimana, già si può fare. Capito? Lì c'è la partita, adesso un mercoledì e c'è nuovamente la Juventus. Però prendiamo le pizze. Una pizza mentre la settimana già sta bene. Oggi mi ho fatto una. Sono arrivato a casa alle 2:15. Mai mi. proprio alle 2:10 sono uscito, alle 1:15 da casa, ma non c'era lì a casa, lo dava. Ho fatto questa lenticchie, giornata proprio bella, due piatti mi ho mangiato caldi caldi. Eccole lì, quello adesso ti immagini andare. Già, non sono di quelli, no? Io ho il mio orario, boh, le mie cose tranquille, serene, no? Niente di quella roba lì, niente, ma anche i fagioli, i legumi, insomma, in generale. E poi mercoledì a pranzo sicuramente facciamo fa la favatta, capito? Vediamo, favatta buona. Sapete, fanno un po' arrebisare, è un po' favatta come tutte le verdure. Allora, la favatta l'ho mangiata la settimana scorsa. Siamo andati a casa di amici, ci hanno invitato, l'abbiamo fatta insieme, cose, ed era veramente buona, perché poi non l'hanno fatta con la carne grassa, hanno messo orecchie di maiale che aveva fatto sotto sale il marito, orecchie del maiale e pezzi di carne, lui non ne hanno messo l'altro che è pesante, con l'altro di grippa. Tu da un po' ma ci mette, oppure come hai detto tu qualche pezzo di cosa di maiale, niente di particolare, capito? Con un po' di carne attaccata, cioè vabbè, no, c'è l'altro, guarda no, guarda, dice bideccia, io ce l'ho l'altro, però quello è diverso, quello da tagliare col coltello piano piano, nella spianattina, quello è micidiale. Già, quello me lo sto mangiando piano piano. Faceva anche mio padre a carta, diventava rosa, mentre passava grosso, lo faceva. C'avevo un amico che ammazzava il maiale, ne dava un pezzo grande, ve lo pagava naturalmente, era un bel pezzo grande, lo facevo. E lo facevo anche con l'uovo, con l'uovo fritto, se lo mettevo sopra, lui canterà a voi. Guarda, da tutte le parti, boh. Non mi hanno regalato due pezzi, un amico, diciamo che un pezzo è già quasi partito, c'è mio genero, mi piace anche a lui, con la spiantina calda, e quindi abbiamo cotto una giuccia di mani, puro. Capito? Poi a merenda, lo stesso stasera, sulle 5, ho messo due pezzettini, un pezzo di spiantina, mi ci mangiato. E una banana. Giusto così, non so queste banane, ma la tappignana non c'è. No, io stamattina ho comprato della ricotta mustia, che è una favola, era quasi, da, è una favola, è diventata una ciuscia, ma quanto mi piace, soprattutto non era né salata, delicata e allo stesso tempo affumicata, ma buona veramente. E infatti sono andato a comprare una subita, ne ho preso la metà, una metà di forno. Sono andato a pigliare una subita che mi è piaciuta un bel. Io sono. Vado fatto con la roba affumicata, mi piace la salsiccia affumicata, mi piace il salmone, tutta la roba affumicata. Anche a me. Ascolta, dove l'hai presa la ricotta mustia? Piazza del Cino. Da Mura, vicino a casa qua, alla CRAI. Ah sì. Me la stanno portando buona anche alle loro spine, è sempre Mura. Stanno portando anche buona alle loro spine, qua, sia qua in via Carofelice che giù, no, cioè in via Carofelice no, perché non è Mura, giù in via, via è quella, vabbè, giù via Venezia, comunque mi sembra sia quello che è Venezia, quello lì. Sono trasferiti molto buona, c'è un banco frigo allucinante, banco salumi, ma molto bello, e c'è tutti i formaggi a portato, e la ricotta mustia, la ricotta tutta roba di Osino. Io lì non ci sono mai andato, lo stesso, non sono mai andato. Bello, facci, è bello. È più grande di questo che c'è qua a via Carofelice, questo c'è via Carofelice è lo Spin Italia, invece quello che c'è giù via Venezia è di Mura, molto più grande, sortimento anche più, mi sembra c'è anche più roba. Capisco perché ha chiuso quello che c'era dietro la banca San Paolo, io ti prelevavo, poi andavo e facevo la spesa, tranquillo, tranquillo, invece, tocca andare, viare Porto Torre, se pure andare di lontano, ma avessero fatto questo vicino a casa dello spizio. Se vuoi di via Caro Felice, la banca intesa c'è dello spin davanti. Praticamente a Mura gli hanno pagato per andarsela lì, capito? Perché Eurospin Italia ha comprato il terreno dove c'era Capolino, ha buttato tutto a terra e ha fatto l'Eurospin Italia. Quindi noi ci poteva essere un Eurospin Italia e un affiliato Eurospin, quindi l'hanno pagato per spostarsi da lì e lui se n'è andato giù in via Venezia, lì ha comprato tutto, ne ha buttato tutto a terra e ha fatto l'Eurospin nuovo, sia che rimane in dinare. Già se li ha fatti bene i conti, non è macchina. Mi sembrava che stava quasi morendo quando ci aveva venduto Platamona, eccetera, eccetera. Con tutto lo stabile, la discoteca, le case che ci sono su, i bar tabacchi, tutto nostro quello lì. Più lo spiazzo, eccetera, eccetera, quello lì a noi ci aveva avuto 1,5 miliardi di fare. E infatti tu mi stava cercando, stavo dicendo un negozio che d'estate era una miniera, non dico tanto d'inverno, infatti d'inverno noi adesso stiamo chiudendo con la nuova gestione, prima lo aprivano anche d'inverno, adesso con la nuova gestione d'inverno lo chiudiamo e apriamo solo d'estate, capito? Che è il boom proprio, è il boom, d'estate c'è un bel gesto. L'inverno c'era solo il rifugio, un peccatore, c'erano tutte le entremese, gente separata che abitava lì, eccetera, eccetera. Era tutto un ambiente strano, comunque. Infatti l'abbiamo detto basta l'inverno, adesso solo l'estate l'abbiamo. No, pensavo che stesse andando male, quando ha venduto quello lì, perché l'aveva venduto a un prezzo di giù, perché lì ci sono case, c'è un bel di appartamenti sopra, loro li affittano d'estate e si fanno su. Beh, certo che sì, no, lì muovendo, mi guardare, io esci, come fanno esci. C'è tutto per Daniela, come c'è dello spin per Daniela, ma è suo. E tutti quei capannoni, dove sono le poste, chissà, non sono suoi. Tutto suo lì, tutto suo, tutto suo, ma non so, ce ne sono anche altri. Ce ne sono anche altri, capite? Già verrà la pila, non ti preoccupare, già arrivi a fine mese. Ah no, mi stavo parlando con una commessa, ho detto non mica c'ha solo dei gusti, c'ha la panetteria, c'ha l'orificio, c'ha la gastronomia, insomma c'ha un sacco di roba. Io lo so, infatti c'è anche la gastronomia lì dello spin. Ma lui ha proprio il centro dove che poi distribuisce tutti i negozi, capito? Dove cucinano, fanno, eh? In più c'hanno anche la panetteria e l'orificio, in più porta roba a casa, se tu mangi la roba di campagna sua quando la porta ti deve chiedere. Con le mele, ce le presenti, con le mele miali, quelle di San Giovanni. Poi tanto sono buoni. Io me le compro sempre, da amici, neppure ha portato le uova di campagna per lui e me le compro, sono piccole ma sono fresche fresche, capito? Le porta le cestine e porta tutto quello che ha. Beh, lo sto dicendo, esti guy, che comunque lì non ho pagato per andarci e ho preso anche un bel po' di sciuti, non poco, no? Un bel. Si è spostato giù, aveva già comprato dove c'era la, quel quelle di Sardegna, mi sembra che c'era una cosa del genere, comprato tutto, ampliato, ha fatto, buttato tutto giù, tutto nuovo, ed è un bel grande quello, un bel. E c'ha tutto roba buona, stracco baratto pure, però roba buona. c'è quello delle conce e lì non si può entrare. Io quello delle conce non ci vado molto volentieri, c'è un po' di delinquenti. Per i dusi ci visto l'entrata, tutto pieno di enti rompia. Non sono mai entrato lì. Non sono mai entrato. No. Lì dove c'è Mariani, lì stai dicendo. Io una volta sono andato da Murani. Niente, perché te ne vuoi andare da tuo cognato? Perché mi ha detto non andiamo molto d'accordo e poi ho detto già, ascolta, io se va qui a Utilo, può interessare, lasciami che ti dà e ti chiamo quando apro, poi non ha mai aperto a Utilo. No, Utilo era il di Sardegna, no, non è aperto, anche perché non, con la Tranova c'è Sassari vicino, capito? Troppo vicino. E poi c'è un altro supermercato grande, non ricordo che supermercato sia. Sì, lo so proprio dove aprire, proprio su, vicino all'entrata principale, per andare a Nulvi. Per andare a Nulvi. Sì, Piero conosco molto bene. Conosco bene Pietro. Una persona che si è creata da niente, dai. Adesso ne ha aperto un altro, via Principessa Maria, via Montegraffa, adesso non mi ricordo quale, ne ha aperto un altro nuovo. Ah, suo anche quello? Allora, quello CRAI è suo. Sì, adesso fa prendere il CRAI. Sì, è come noi, la stessa linea, dai. Perché però lui è praticamente... mi pare che sia socio, compra solo da IPA e basta, e poi il padrone non capisce. No, è solo lui già, non ha soci, non te lo dico perché uno dei suoi responsabili è un carissimo amico, Marco, che lavora qua, non ha soci, è Umberto, non gli vuoi soci, no. Hai detto, i due sono troppi, boh, fa un discorso al conto suo, comunque non è vuole succedere. Uno è poco, due sono tutti. Esatto. C'è Valino Baffi. Allora, ma cosa del genere? No, non è vuole lui. C'ha ciliare le sue risorse per da solo, perché non c'è solo quello. La fabbrica del... lì nella zona dove ci lavorava per anni, ci ha lavorato Andrea, c'era la fabbrica del coso, fa il briciolino. È vero, non lavora più Andrea lì. Come è pensione? E siamo andato, si è da Edo. E la moglie sta, Andrea mi ha detto che la moglie doveva andare a lavorare lì, a... devo fare della peschiglia di cose, poi sono andato e non l'ho trovata, adesso addirittura la peschiglia non c'è più. Sì, era lì, poi è stata operata e è andata via, capite? È stata operata. La figlia c'ha l'attività sua, capite? Aveva tutte le licenze, le cose, c'ha l'attività sua, sempre pescheria. C'ha due pescherie, c'ha. E quindi, vabbè, Andrea adesso è in pensione, fa qualche cosetta, ma Maria lavora con la figlia. Ah, e dove ce l'hanno le pescherie? Guarda, se mi pacchi un gabbo, me l'ha detto, ma non me la metto. La gabbo? Sì, me l'aveva detto che faceva i turni di notte, che... ti ricordi la volta che tu me l'hai passata al telefono, che stavo parlando con te, tu me l'hai passata e abbiamo parlato di questa cosa. Mi ha detto che faceva anche i turni di notte. Sì, ma infatti, ma non si può lavorare qui lì per lì. Non è andato in pensione. È andato in pensione dal 1 gennaio. Quest'anno, dal 1 gennaio. Ci siamo sentiti, l'ho chiamato domenica mattina. Domenica mattina avevo un telefono. Dovevo salire, invece poi non sono salito perché doveva andare a fare una commissione, quindi a pranzo non c'era. Capito? È andato in pensione, sì. Vabbè. Lui era una vita a conto suo, quindi quei contributi, più quelli che ha lavorato da dipendente. E ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. E vabbè, adesso aspettiamo noi già. Sì, ma io devo presentare la documentazione, è tutto finito. Adesso, completato tutto, se presento la documentazione, si da andare, andare e ce la riapri le luci. Oh yeah. Ma qua quasi sicuramente mi ha detto la dottoressa che ha fatto i documenti, se non il 100% almeno il 95% me lo dà. Beh, ma conti i miei fatti, gli ultimi che mi hanno aggiornato, con quelli appunto del che ho iniziato a 16 anni eccetera, che lo fa mio padre Ciccia, e tutte le militari, cioè tutto, tutto quello previstato eccetera, dovrei al 99,8 non 9% 0,8% della pensione con 1.180 euro. Ma conta se sei figlio di un valido di guerra? Certo che sì. Invece quella, io vorrei mettere una fotocopia di questo. Che mio padre è un valido di guerra, mio padre praticamente per salvare il suo amico che avevano scritto se l'ha caricato in spalla, hanno buttato un'altra bomba e ha preso l'amico e l'amico l'ha ammazzato sulle spalle e a lui gli è entrata una schigia nella testa che non gli hanno mai tolto, c'aveva il segno della schigia in testa però non gliel'hanno mai tolta perché era pericoloso, potevano staccare il cervello eccetera eccetera, quindi l'hanno separato, si è previsto lui, grazie a Dio ha vissuto 96 anni. Ehi, Giandavè allora, Giandavè, la vagava. Sì, no, io ho fatto tutta la documentazione perché praticamente risultavo lavoratore quando avevo 16 anni perché mio fratello era ancora a scuola, tutte le femmine erano già quasi tutte sposate e quindi io per dare una mano a mia madre ho iniziato presto a lavorare come apprendista e quindi il conteggio quello lì è valso doppio come contributiva. E quindi sono arrivato all'incirca, mi pare, 1.180-82, una cosa del genere. Andava, sono 1.200 euro al mese, andava benissimo. Poi, dai, già siete in due, dai, da poco si sposerà, quindi io già ho fatto tranquillo, tutta moglie prenderà quella di casalinga, gli è andato bene. Non ne prende mia moglie, ti ho detto. Prende quella casalinga e quella contributiva di tutti gli anni che lei ha lavorato all'asilo nido, no? Ah? E all'asilo e poi alla detra. Allora vabbè, la casa riposa all'asilo nido. Quindi sono 16 e 4 mi pare, sì. 25, sì, 21 anni. C'è la contributiva. Quindi. Il provetto più o meno arriva a 5,50, una cosa del genere. Grazie, i miei suoceri, tu pensa che prendono più adesso, mio suocero prende più adesso di quando lavorava, immaginati tu, di pensione solo, ti dà una vacca di dinanza. Avevano, mi pare, a 3.000 qualche cosa al mese in due. E come mamma, come mamma e il marito. Ha una buona passione perché lui era un capo reparto dell'Enica, dai. Un reparto capoturno, buon, non so. Enica. Mi aveva dato in pensione, per me, quasi vedo più di chi si ripigliava. Allucinante. Mamma, vabbè, dipendente dalla provincia, perché l'istituto nautico dipendeva dalla provincia. E quindi insomma già stanno bene, grazie a Dio, stanno benissimo, però sai, noi col lavoro così, un casino, loro sono andati in pensione con 3 35 anni di contributi, vabbè, torso c'era no, perché era la polizia, quindi vanno in pensione presto, però mamma è in pensione con 35 anni di servizio, quindi non li dovevo senza l'età. Noi invece dovevamo avere 33 anni di servizio, qui dobbiamo avere 65 anni. 42 di servizio. E se vuoi andare prima di 65 anni, vuoi avere 42 anni di servizio? Anzi, te lo rettifico Gianni, che sono 42 anni e 6 mesi, quasi 43. Esatto. E poi non so le malattie se te le scala, non so come sia la studia, se ti scalano anche le malattie. Sì, beh certo, è certo. Io già ho fatto poco in tutti questi anni. Zero praticamente, un infortunio, è sempre andendica, per carità, poi per che cosa? L'ho fatta dare la medaglia, devi lavorare sino all'ultimo per poter percepire questa maledetta pensione. Boh, io vedo comunque ce la dovrei fare. Se non a fine anno, al prossimo, inizio del prossimo anno, dovrei farcela, già tutto pronto. Yeah. Ma loro quanto ti hanno detto che ne hai ancora? Guarda, con con gli ultimi conteggi a me mi dovrebbero mancare due anni e pochi mesi. Due anni e pochi mesi. Così avrò fatto però che l'azienda mi ha detto se voglio andare prima loro mi danno una mano. Quindi se ci riesco me ne vorrei andare a fine anno. Ah? Vabbè, già va bene lui, allora sì, ma non c'è problema, non c'è il problema, adesso fai conto alla rovescia, 2-1, boom. E già manco pensavo, cioè, se ci pensi a voi, magari mi chiedono di rimanere, capito, come è già successo al mio collega, no, che gli hanno detto di rimanere, ed è pagato anche molto, molto, molto bene, che c'è un bonus, solo di presenza a mensile va un bonus di 300 euro, quindi perciò, perché nella zona dove sono io non è facile iniziare da capo, capito? Mettere uno e mandarlo uscire allo sbaraglio, una zona molto molto a rischio, ma soprattutto non è facile da gestire per il vestito, quindi ho sicuro che mi dicano di rimanere magari un anno in più fino a fine gestione di quella zona, perché quella zona è gestita mi pare per 3 anni e poi la riprende il comune, praticamente Obbia Tempio, la provincia Obbia Tempio. Io sono anche fuori provincia, quindi figurati, sono via in missione io, perché io sono assunto al distretto 6 che è Sassari, quello del distretto 7, quindi sono anche fuori zona, però ora si pure che mi chiedono di rimanere, come stanno votando questo sistema, ci si rimane oltre quello che l'aspetta, capito? Fanno una non so che cosa, comunque c'è un altro stipendio. C'era qualcuno che voleva entrare avanti, stavano solo va bene. Dipende, se non entrano vuol dire che non vogliono entrare. Non so, lasciamo un attimo di bianco. Ma stava parlando sopra di me, sotto di me chi è? Ah? Stava parlando sotto di me, sopra di me, cos'era? Hai sentito chi l'hai? Dove hai sentito? E l'ho sentita sopra. Io non so, ne ho guardato io. Beh, se non vuole entrare c'è. Cosa ti stavo dicendo? Ah, vabbè, comunque, interessante che quando arriviamo all'apice non tolgano le pensioni, dove ci ammazziamo. Sì, via l'otto menzionato. Allucinante, restano qua, ne stanno facendo tante. Claudio, adesso devo andare a fare queste analisi, non so se hanno i reagenti, perché l'altro giorno hanno messo sul giornale che non avevano i reagenti e stavano centellinando solo per le persone in urgenza, senza incidenti, roba del genere, e di farlo solo con le persone. Adesso io non so se andare, se non andare, domani mattina non ci vado, vado dopo domani, domani mattina vado al dottore se riordino le medicine, e dopo domani vado lì, perché non è possibile. Ho letto questa cosa, praticamente non hanno i reagenti per fare le analisi del sangue. Allora, questa è una vergogna. Poi vanno a un punto che fra poco te lo porti da casa, te lo fai tu le analisi, oh yeah. Un casino, addirittura so che gli hanno detto di non ordinarne, perché non ci sono di là, oh yeah. E poi rimangono con i buffi, no? Da quando l'azienda è diventata privatizzata, sta facendo un casino lì. Non si capisce più niente, non c'è, è proprio un problema vero, vero, vero, vero. Esatto, siamo in Italia e continuiamo ad andare sempre peggio in tutte le cose. La sanità però è una delle cose che devono avere un fiore all'occhiello. La sanità è una cosa urgente, non è una cosa da scherzare. Dovrebbero avere tutte le cose. Addirittura quando io mi sono operato all'occhio, abbiamo dovuto aspettare al policlinico questo, abbiamo dovuto aspettare che arrivassero tutti gli attrezzi per l'operazione, sigillati, no, tutti quanti, e in più le lenti che dovevano mettere. Sin quando arrivava questa roba siamo stati in tensione, già sei in tensione per l'operazione. Poi siamo stati ore e ore aspettando che arrivasse questa roba. Siamo stati, lui, il dottore, tutta la mattina nell'alito col telefono, parlando, facendo, c'è una fruttia. Noi eravamo in tensione dentro questa stanza aspettando che ci operassero, che arrivasse questa roba, perché se no ci potevano operare. Ma te ne immagini? Ruffinocchi! Orecchione! Beh, Ratta Pignara! Buonasera a tutti, dai! E io ero su tutta la sera coricato, sveglio ma coricato, si è volgato sopra e poi io ho mangiato poco fa una pizza schifosa tutta molliccia perché il fornetto stava bruciando la pizza, fornetti da mettere sui fornelli, no? Allora l'abbiamo messo a microonde, solo che era una cosa indicibile, andava una cagata. Mamma mia, prova a ridare, ma tu sei finito questa rivoltella, sempre con questo gatto a letto, sì, boh. Ehi, siccome mi vuole bene, viene quando vede che mi sdraio, che mi corico così, insomma, viene e si mette sopra di me, no? Perché sente il caldo che arriva da sotto, mi usa come scaldino, mi. Tu come coperta a lui. E a Londra quanti siete? Chi siete? Gianni e Claudio. Solo? Ho visto quella vignetta, mi. Se noi i conti li facciamo con quelli, con i fucili. Ho mandato un video che mi ha mandato il mio collega siciliano, maledetto, siciliano sardo. Già, è andata a Marco questo video, praticamente questi due c'è scritto trasportiamo calcolatrici, hai filmato dei carabinieri ce la sta trasportando, cosa ha trasportato? Semplici calcolatrici, vabbè, apre il cofano, andiamo a controllare, apre il cofano, tutto pieno dei fucili, mitra di tutto, per ehi, ma queste sono armi, noi conti Sicilia così li facciamo. Ehi, assisti la musica a internet con la vignetta. In Sicilia fanno anche cose proprio molto strane, ho visto forum oggi, praticamente questa famiglia si è venduto perché aveva il debito di 80.000 euro con la sorella, questa qui gli ha dato la figlia perché questa sorella non aveva figli, e questa sorella era di quelle un meccanchise, la trattava come una ziracca. Quando arrivavano gli amici diceva che era la sua donna di servizio, e poi non gli faceva mai una carezza, niente, e praticamente questa ragazza dice: ma perché mi odiava così, mi odi così, gli avete detto, perché tu sei solo per pagare un conto qua, no, io non ti voglio bene, sei solo per pagare il conto e il debito di tua madre. Ma che idea, chi se la vive imparata a vederci, sparata forte, ah, manco lì. Abbastanza stronza la tipa, dai. Via. A Forum l'hai visto? Dov'è che l'hai visto? Ed è Forum stamattina. E il bello che ha detto che non le ha mai dato una caratteristica sua, non ha conosciuto infanzia, perché da quando aveva 14 anni praticamente l'ha mandata questa zia a Torino. La zia, questa qua, lontiona, si è sposato un tipo ricco e faceva vita adagiata, cioè conosceva tutta gente altolocata, capito? E a lei le faceva fare la serva quando praticamente c'era gente, non la faceva, la faceva solo servire, non voleva che stesse con loro perché dice che non sapeva parlare, che parlava sulla gente che stava parlando, e cioè, che non si sapeva comportare, che non aveva fatto le scuole, eccetera, eccetera, capito? Lei invece era un'autodidatta, si è istruita da sola, praticamente si è sposata a questo tipo che era ricchissimo, che la riempiva di gioielli, di cose, ha fatto, però non aveva figli, capito? Quello è. E la sorella, lei, la tipa, ha detto che pensava che la mamma gliel'avesse data proprio per coprire questo buco che avevano, perché non avevano figli. Invece non era per quello, poi quando ha saputo che la madre l'aveva data solo per pagare questo debito che aveva con la sorella, ha detto che alla fine poi ha conosciuto questo tipo in chiesa, eccetera, eccetera, e questo l'ha salvata, l'ha proprio tolta dalla famiglia e l'ha sposata. Ma dice, io l'affetto, il vero amore, il vero affetto l'ho conosciuto dopo che mi sono sposata, quando mi sono sposata con lui, perché se no io affetto non avevo mai conosciuto, mai una carezza, mai nulla, la trattava come una schiava. Questa è come mia zia, mi. Ciu ciu! Ma dice, cattiva come lì ha fatto bene, tu sei solo per pagare un debito qua, gli ha detto. Poi quando ha portato il tipo a casa che ha conosciuto non gli piaceva manco il tipo, gli ha detto che era l'ha proprio definito un energumeno, una cosa del genere, che non lo voleva più vedere, eccetera, eccetera. Poi è stato il marito che l'ha svegliato e ha detto vai a Forum e ti fai pagare quello che ti devono dare, praticamente tutti gli anni che tu hai fatto di servizio, tutti gli anni che tu hai fatto di servizio te li fai pagare, perché non c'entra nulla col debito di tua madre, tu hai lavorato e tu devi essere pagata con interesse e con tutto quanto. Adesso non so poi come sia finita, perché io sono dovuto uscire per andare a fare la spesa, ma penso che l'abbiano, che il giudice fosse d'accordo con la ragazza, perché tutti i sassi li hanno messi, non so se tu hai visto fuori sulla bilancia, era tutti dalla parte di questa ragazza. Beh, non poteva essere altrimenti. E chi è dalla parte di quella strega? Nessuno. Ma conci se, mumì. Peccato, avrei voluto sapere come andava, pazienza. Sicuramente ha vinto lì, dai. Per sicuro sì, perché lei dice io ho lavorato una vita, sono stata anche trattata male. Ho lavorato, lì mi ha preso in nero, non mi pagava assicurazione, non mi pagava nulla, mi faceva fare il lavoro di cameriera e a tutti. Allora le amiche le diceva che era la nipote quando andava in chiesa, perché doveva fare bella figura. Poi quando andava a presso l'altro locale diceva questa qui è la mia cameriera, adesso vai prendi la roba, la comandava davanti a loro per far vedere che era la cameriera, capito? Insomma, una specie di Biancaneve, dai, quella ragazza. E vabbè, certo che anche la madre, a dargli la figlia per estinguere il debito, roba da matti. non so, poteva estinguere lei a fare la serva a casa della sorella. Vabbè, anche questo succede, minchia. Questo è in Sicilia? Yeah, ma io sto in Sicilia, anche da Maria De Filippi, eccetera, eccetera. Ho sentito parecchi di queste storie siciliane che praticamente danno i figli, eccetera, eccetera. Come io, cioè, i miei figli non li darei manco per tutto l'oro del mondo, ma nessuno, ma nemmeno una sorella, nemmeno un fratello che so che li tratta bene, assolutamente. Salve, non so cosa mi è successo l'altro giorno, ero nel portone a proposito di dare, e quello di su mi ha detto: oh già, qualche giorno me lo dà il cane e me lo porto in campagna. Io: no, assolutamente. Come, non me lo dai? No, io il cane non lo do a nessuno, il cane quando esce con me. Riprendi Marco, arrivo subito, un secondo. Eia. Ah, lo volevo per portarlo in campagna. Però poi non sai mai se si fa male, se mangia qualcosa che non deve mangiare. Non si prestano gli animali, dai. Non si prestano. Magari viene aggredito a qualche animale che c'è in campagna, qualche cane di qualcun altro, no. È come la roba, il cane non si presta. Mi ha detto dal pesciere, il campagna gli dà da mangiare di tutto, lui ha un pasto regolare che deve fare, eccetera, eccetera, gli dà certi tipi di roba, gli ha abituato così, non mangia roba al di fuori del pasto, in più se gli scappa e da voi non la ciappi più, è un casino, e loro se ne fregano, magari parlano, scherzano, e fanno, e il cane si andrà con più giù. Infatti, no. Cane trattato bene, tenuto bene, deve continuare a essere tenuto bene, no, a darlo a destra manca. Bene. Mattina sono uscito, sono andato in banca. Ciao, si dito il clacson, non so chi sia. E mi sono ritirato una ventina di euro perché ho messo tutto in banca, no? Però se devo prendere un caffè, una fesseria, non è che pago il caffè con la carta di credito, le faccio brutta figura poi. E quindi per avere un po' di soldini in tasca ho ritirato 20 euro dallo sportello. E poi siamo andati da Lidl a fare una spesuccia, dai. Questa è la giornata, non abbiamo fatto molto. Poi tutta la sera con ricatto, avevo freddo, mi lo sai. Ero seppellito sotto le coperte perché avevo freddo. E adesso al baracchino la giacca, perché sentivo più freddo oggi, poi il tempo sai com'è, non c'è sole, quindi sono giornate umide queste, non è, no, ma anche io non ho fatto più di tanto, mi sono sceso a prendere il pane sotto casa, dopo sono andato da lui, ho fatto un po' di spesa, dovevo andare anch'io in banca, dico la verità, però non avevo gana, ho visto il tempo e sto uscito. Poi ho pensato, Marco oggi non ci andrà in banca, con questo tempo così non si muoverà da casa, e invece si è andato lo stesso. Sì, piovigginato, ma nemmeno, poco, erano quelle gocce di micro pioggia, tutto lì, non... Poi tornare, siccome non avevo voglia di fare salite, sono tornato in tram, capito? Ho preso la 6 e mi lascia in via Savoia, capito? È vicino, ma così si viaggia bene in tram. Questo sta suonando sotto, adesso l'abbiano chiuso. E vabbè, infatti non uscivo da tanto con un po' di pioggerella, a piedi, cioè uscivo da tanto. Non è che ti faccia venire molta voglia di uscire quando c'è questa pioggia così, e uno esce quando c'è bel tempo e infatti avevo anche voglia di farmi una passeggiata, ho detto magari me ne esce da Plattamona, me ne vado nella battigia col Tiger, mi faccio una passeggiata col camion nella battigia, invece con questo tempo così dove vai? La settimana scorsa sembrava primavera, a casa con le giornate che ha fatto, te lo dico. Io già, l'ho detto anche a mamma, ho detto ma questa è primavera, non è inverno, e insomma alti e bassi. col tempo è variabile. Domani il meteo della Nuova Sardegna dice che domani c'è sole, mattina, pomeriggio, sera, o comunque mattina e pomeriggio, poi di notte pioggia forse, o, no, o coperto comunque. Andiamo, dai, vediamo domani, insomma, andiamo, boh, qualcosa faremo, dai, cosa faremo. Di solito a me piace uscire la mattina quando riesco a alzarmi, capito? Mi piacerebbe uscire la mattina anche quando c'è sole, stare in Piazza Italia, prendermi un po' di sole, vedere gente che passa, capito? Però per il mio ritmo di sonno non sempre riesco a farlo, anzi quasi mai. Quasi mai. Benissimo, vediamo se è rientrato Claudio. Claudio non è rientrato. E mi sa che mi do una mossa e ci vado adesso in banca. Tanto devo solo ritirare qua. Sono io Garabatto di Isi. Sono rimasto proprio qui con una cinquantina di euro. Aspetta, non voglio avere sugli contatti, vado a ricevere qualche cosa, perché lo stipendio non hanno messo e devo andare a ritirare ora. Ehi, ma tu ne hai gli sportelli bancomatte vicini? Sì, via Pasqua. Ah, ecco. Perché io vicini vicini no. No, devo scendere per forza al centro. E poi per 20 euro miseri sono andato proprio allo sportello dei Monte di Paschi. Se no mi fanno pagare 2 euro dagli altri sportelli per 20 euro miseri, capito? Per la commissione. E quindi sono andato proprio a Monte di Paschi e ho ritirato 20, proprio una miseria, 20 euro, tanto per avere soldi in tasca, gli altri li lascio sulla carta. Possono servire in futuro. Avevo detto a Claudio anche, se volete, andiamo a mangiare da Ilaria, capito? Adesso che ho qualche soldo da parte, però non vedo che non ce la voglia, dai. Mangiamo la notte che c'è il karaoke, di modo che abbiamo musica e tutto quanto, tipo mi ha detto che c'era o domenica o sabato, adesso non mi ricordo il karaoke. Andiamo, sì, possiamo andare, se non si spende tantissimo andiamo. Sì, ma poi io prendo cose semplici, non prendo pasti complicati. Non so cosa abbiano lì, ma io mi accontento di una pizza, di cosa ne so, di un kebab, capito, roba così, e basta. È una bevanda, e boh, non faccio molte spese, capito già. Io l'avevo detto a Claudio, però non mi ha detto nulla poi. Claudio, sì. Sono anche io figlio, adesso possiamo farlo tranquillo. Claudio deve essere al telefono, deve scusare Garugani, non lo so. Io mi sa che mi muovo e vado in banca. Quindi a taglio, così almeno poi come arrivo scendiamo e gli faccio fare i bisogni e poi vado a casa. E così almeno. Tanto riprendo dalla macchina, poi non è che ci sia questo problema. Come rientra Claudio, mi sa che vado, Marco, se no non mi decido mai, perché domani poi devo andare dalla dottoressa, insomma, ho un po' di roba da fare. Ehi, già, dai, se poi non rientra vai lo stesso, dai, così almeno ti togli, prima che ci faccia tardi, cosa ne so, ti togli il pensiero, dai. Io già sono con il cane, non c'è problema, non mi tocca nessuno. Andare tardi in banca è sempre, capito, un rischio, no? Magari ci applica che i greffa dei ragazzi e ti chiudono la giusta di ripigliare di nero. No, magari quello no, ma magari temi i tossici che arrivano con la siringa. Per esempio c'era sulla Nuova, hanno rapinato la farmacia in via Brigata Sassari. Andati due col volto, boh, non so se coperto o no, e l'hanno minacciata, credo, con una siringa, così diceva il giornale, forse era una siringa, e si sono fatti dare l'incasso. Usano quella, come dire, la siringa infetta, dammi i soldi, a non beccarli, cazzo, dargli una sussa, proprio allegnatemi. Brigata Sassari, quale c'è, coso, fino a non sai. Guarda, non mi ricordo il nome, forse ho letto Poddiche, può essere, boh, non me lo ricordo già, non me lo ricordo proprio il nome. Beh, una ce n'è, book, prima era riempita, non so, poi non lo so se ha cambiato gestione. Book. Fronte alla vecchia Telecom di prima, ti ricordo per la Telecom di fronte. Sì, sì, mi ricordo che metteva i telefoni in vetrina, il Sirio, tutti quelli là, eia. Eia, eia. Ah, è vero che c'era la Telecom. Anche quello tutto cambiato adesso. Il tassi si trasforma piano piano. Vabbè. Tutto sta cambiando, Marco. Io tante volte mi viene pure, se mi ricordo che c'era un negozio, per dire, dopo prendo quei dischi, vado a cercare cose, non c'è più il negozio, vado a prendere i pantaloni, non c'è più quello, tutto giambato. Ti ricordi quando da ragazzino andavo da Regina, via Enrico Costa, parallela di via Cavour mi pare, sì, a prendere musicassette, dischi, Regina, non so se te la ricordi, c'era da un bel, e poi è sparita da ormai da decenni è sparita, sarà 20 anni. Sì, già me lo ricordo, poi c'era la Grishenko sotto i portici del grattacielo. Eia, me lo ricordo, eia. Invece poi si era spostato via, forse via Cavour, cioè che non credo che non ci sia nemmeno più lì. E poi uno era in via Brigata Sassari, però non mi ricordo qual era il vero Grishenko, capito? E un macello è. Dovrei controllare, sai cos'è ho già, non andando più a piedi al centro, non mi ricordo più che negozi ci sono, quali sono spariti, quali sono rimasti, non so nemmeno più se esiste il centro Giuni, in piazza Giuni, l'ex Upi, Mimì. Sì, quello sì, cioè, per lo vero, se non hanno chiuso questi giorni. un giorno sarebbe bello fare una passeggiata e andare al centro a vedere queste cose, perché ogni tanto io lo faccio, quando sono in ferie, ci vado, capito? Ci vado in questi posti qua, vado e controllo, giro, faccio. Ma ne trovo molti inutili posti, molte cose nuove che non ho mai visto, che non ne sapevo manco l'esistenza. Per dire adesso c'era, da poco io avevo avuto un incidente con la macchina, da poco, oddio, sarà un 8 mesi fa, e questa agenzia mi aveva fatto avere i soldi, perché questo non mi voleva pagare, mi ha fatto avere i soldi in una settimana, ha messo l'avvocato, tu grande, mi hanno pagato subito, poi loro si arrangiano con le... Fatto stavo a cercare questa agenzia, anche quella è chiusa, telefonava e non rispondeva nessuno, alla fine c'erano altre persone della chiusa. Eia, si era trasferita. Eia, poi, che ne so, in via Lomberto, ancora via del Trento, lì in zona c'era il famoso navaco, non so come si pronuncia, c'era da una vita, quando ero piccolo io esisteva, una vita c'era, adesso invece non c'è più navaco, c'è un negozietto, non mi ricordo di se è lo stesso di abbigliamento, corsi e vabbè cambia tutto giustamente, era anche caro navaco, una maglietta della Maui 70 euro, cioè, o meglio in lire, 70.000 lire, 90.000 lire, una maglietta, non ti innandi. E lo so, vendeva le magliette a navigare, tutte quelle asciugamani a navigare, tutta questa roba a navigare c'aveva. E no, quando c'aveva l'allarme non faceva proprio il paracchino collineare, gli faceva suonare l'allarme. Oh, suonava col collinearetto. Via. Poi la piazza Castello mi piaceva prima, dove quando c'era la via centrale, dove passavano le macchine, dove parcheggiavi anche con la macchina. Adesso tutto pedonale, tutto pedonale. Poi hanno fatto questo obbrobrio di coso di cristallo dove sotto ci sono le fondamenta lì del castello vecchio. C'è una puzza di muffa. Cioè non lo so. Non mi piace più Piazza Castello, non mi piace. Mi piaceva ai tempi fino a 10-15 anni fa, insomma quando era divisa in due piazzette mie, e potevi parcheggiare. che a me piaceva, adesso non mi piace più perché è una cosa troppo lineare, troppo prima era bello perché aspettava, c'erano le macchine, le moto che parcheggiavano, eccetera. E purtroppo la decisione non è stata nostra, di sicuro c'è sempre chi decide per noi. E comunque in ogni caso io c'avevo lì la greffa, c'è sta cartello lì dove c'è la banca, noi eravamo sotto la banca e allora c'era la buonanima di Mario Mao che faceva la guardia giurata lì dentro la banca. E quando mi vedeva crocerando mi puntava la telecamera e poi si metteva a ridere, accendeva la luce forte, tutto che si puntava, e capito, vedo questa cosa, mi staccavo e vedeva lui ridere. Ti dirò di più, che quando ero piccolo ricordo questo fatto, che le guardie giurate, a meno che non fossero carabinieri, ma io ricordo che quando ero proprio piccolo io c'era Mario Mao, perché il viso era sempre il suo, che aveva il mitra all'epoca. Forse negli anni 70 le guardie giurate potevano avere il mitra, e dico forse, poi invece tutto è cambiato, hanno solo armi semiautomatiche. Io me lo ricordo questa immagine, lui con l'M12, l'M12. Sì, al banco di Sardegna, sì, c'era il mitra. Non ricordo, me lo ricordo bene. A me mi voleva bene perché io, quando ero in servizio, no, ci davamo l'appuntamento, se andavamo in gita, la greffa mia, ci davamo l'appuntamento lì dove stavamo, al banco di Sardegna, e lui a volte si faceva tutta la notte, poi magari non c'era un collega e continuava, si faceva 24 su 24. Allora gli bussavo la porta, lui mi apriva: Mario, cosa apriti? E fammi un caffè corretto. Andavo, prendevo il caffè e lo facevo correggere con la sambuca o con quello che volevo e lo portavo. Cazzo, tu sei un amico veramente, Gianni, sei un amico. Poi non finiva mai di dire, non se ne è mai dimenticato di queste cose. Ogni volta quando entrava in frequenza diceva: Gianni sì che era un amico, e che è stato sempre un amico, perché mi portava anche la colazione. Regia, ora portiamo la colazione, cioè la porta frippola, sentiamo loro. È arrivata gente all'improvviso e non riesco a farla portare il cane. Sentiamo dopo se ci siete, ciao. Penso. Le 8:20. Ai, che tardi, che cazzo. E io mi trattengo qua troppo là. Dovevo andare in banca, ma non ne ho voglia adesso. E ci vedo domani mattina, non devo andare in banca adesso. Non ti recupera nulla, ciao. A dopo. Via, ciao. Avanti, va. Ciao Claudio. Oi, oi. Vabbè, comunque, come serata sono stato troppo a letto già, sono un po' così. Potevo fare di più. Quando sono troppo a letto poi sono un po' imbambolato, dai. Non ti credere che io non abbia dormito, eh. Io mi sono svegliato e poi sentito Claudio. Ho fatto una chiamata e così, cioè, cosa c'è da gridare? Non sto gridando, sto parlando normalmente, perché sembra che gridi. Adesso c'è nessuno sul canale 10, cambio. No, è l'amplificato, è il microfono amplificato già. Eia. Questi qui sono molto confusi. Eugenio. Buonasera Eugenio, e allora, mettemi conto già, com'è andata la giornata oggi? Io lo ero, compravo qualche cosa di navigare, magliette navigare e basta però. Diciamo che era un negozio vizio quello lì, si faceva pagare l'entrata, però era roba che durava, roba bella, hai ragione tu. Io qualcuna l'ho comprata di maglietta, qualche cosa, qualche altra cosa, ma non più di tanto, è la verità. Qualche volta sono entrato. Poi c'era Wrangler, te lo ricordi Marco Wrangler, quello che c'era nell'angolo tra Viale Trento e Viale Umberto lì? No, quello non me lo ricordo già. Come c'è adesso la Vodafone? Cos'è la Vodafone, quella che c'è adesso? No, ho Vodafone Team, mi pare. Prima c'era la Vodafone, poi è cambiato pure il gestore telefonico lì. Cioè, c'è un altro. C'era lo specialista della Wrangler. Vendeva camicie, pantaloni, tutto Wrangler vendeva. Giubbotti di jeans, camicie in jeans, tutto della stessa marca. Solo quella roba lì vendeva. Eia, queste invece magliette che dicevi tu, navigare, ma come erano fatte? Il logo cos'era? Un timoncino sull'etichetta? No, era una barca, mi pare, una barca a vela, mi pare. Eia. Sì, adi, dai. Piattatola, mercantino. Oh, quello io. Me lo ricordo, Meringioni, ci lavorava uno che abita in zona qui. Poi ha chiuso e si è trovato senza lavoro. E lui? Anche io ve lo ricordo, meglio di lui. E loro vendevano Levis, anche di taglie grossissime. C'avevamo di roba. Ah, ma il meglio di lui già era accessibile, si poteva comprarla. Meglio degli altri. E io andavo anche via l'Italia Massi Club, eccetera, eccetera. Ciucco, sale. Ma Ciucco, non l'ho mai sentito, ma quella zona forse io non batto il capo, dai. Io usavo più al centro, capito? Via l'Italia, Men's Club, te lo ricordi Men's Club? Insomma, vedi la letta adesso ti porti molti, o se ci sono con le braccia conserte davanti alla porta, non te lo vendo più. Carlo, e dov'era? Prima era pieno di questi negozi a Sassari, andavano bene. E prima si usavano i Levi's, quelli tutti stretti con le tasche piccoline o le tasche grandi, a me piaceva con le tasche grandi. E si usavano i Roy Rogers, si usavano i Wrangler, queste cose che vendevano questi negozi qua, capito? Poi si andava in Piazza Tola, c'era... come si chiamava lì? Buttiglioni, no, la Buttiglione ha buttato, una cosa del genere, comunque c'era uno che vendeva solo Roy Rogio. Io ero metallaro, e già me lo ricordo che erano sempre rivali, capito? E poi io non ho mai seguito le mode, la verità, perché di regalare i soldi, io ne ho buttati i soldi, durante tutti questi decenni ne ho buttati, però non ho mai seguito le mode. Vitto, io vestivo come piaceva a me, più classico. No, non l'ho seguita le mode, la verità. E non seguivo, non compravo roba di marca, perché mi sembrava un furto far pagare, che ne so, un paio di jeans 100.000 lire. Un furto, un vero e proprio furto. Eia.